Convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, oggi niente copertina sonora, Giorgio Drugo, il nostro autore, ha deciso così e vabbè. 800 24 00 24 per le vostre sonorità, soprattutto la vostra voce, quello che intendo. Tema della giornata, beh, in realtà ce ne sono molti, parte sono di questi giorni. Possiamo definire questo momento giochino dell'estate, 5 cerchi e 3 anelli, dove i 3 anelli stanno, come abbiamo detto ieri e come ci toccherà raccontare nei prossimi giorni, Pogba che va da Mourinho, Higuain che va da Allegri, che poi sentiamo, e qualcuno che andrà all'Inter, al Napoli fatalmente, potrebbe, ho detto Inter, perché potrebbe, dicono ancora, essere Icardi, che secondo me, continuo a ripetere, ha sbagliato procuratore. Però queste sono opinioni personali, eh. 5 cerchi sono ovviamente quelli olimpici e siamo, ci avviciniamo alle Olimpiadi, anche se esattamente non sappiamo ancora quali atleti ci andranno. Leo Torrini, da super mega iper inviato, qual è? Appena tornato dagli europei di calcio, disfa le valigie e le rifà per andare a Rio. Ciao! Buongiorno, posso annunciare qualcosa dalla Piero Cormano? Di già, traffico è tra 5 minuti, di anticipi, di bruci le notizie. Ragazza, no, nel senso che ti sei dimenticato che in Ungheria si stanno svolgendo le prove libere. Ah, lo so, lo so. Il premio Formula 1 è sulla Piero Cormano e ferma la multipla di Sergio Chionne. Ah sì, è ferma. Anche la macchina del presidente, così come la Ferrari, non funziona. Che vogliamo fare? Siamo messi così, caro Carlo. Poi ne parliamo con calma, anche perché di qualche giorno fa la notizia del rinnovo del tuo idolo Kimi Raikkonen, che ha inchiostrato anche per l'anno 21, invece di poche ore fa la notizia del rinnovo del biondino degli avversari, cioè Rosberg, che ha firmato di nuovo il prolungamento con la Mercedes, ed è di questi giorni tutto il casino che si legge intorno alla Ferrari. Piuttosto sui 5 cerchi che tu andrai a ripercorrere, quante edizioni delle Olimpiadi hai fatto? Così per la cronaca. Tra estive e invernali, questa è la 14ª, che significa che, come potrebbe ben dire un noto politico italiano, anche io sono da rottamare. No, ma che da rottamare? Telefona, eccomi qua. Ma no, sono io pronto anche per Irus Vic. No, ma tra l'altro, non... magari svelo qualcosa, però noi siamo in trattativa con i 1000 agenti di Leo Turrini, soprattutto Vandanara, l'ultima ingaggiata. Ecco, su questo però devo dire, confessare agli amici di Carlo Genta e tutti i convocati, un grande dispiacere. Quale? L'hai già licenziata? No, come sai, a suo tempo l'Inter, come la Inter di Bala, non ha dato il permesso ai Cardi di giocare le Olimpiadi con l'Argentina. Certo. Ed è un grande dispiacere, perché non avremo il bravissimo procuratore Vandanara sugli spalti del torneo di calcio, e credo che sia un'assenza paragonabile a quella di LeBron James, che ha disertato il Dream Team per questa edizione olimpica, hai capito? Mancano, se ne vanno sempre i migliori, caro. non arrivano in questo caso. No, io stavo dicendo che siamo in contatto con i 1000 procuratori di Leo Turrini, soprattutto Vandanara, per averlo come ospite fisso, come voce dal totalmente fuori dal coro olimpico per il programma che realizzeremo per le Olimpiadi, quando avremo la doppietta, non solo tutti convocati dalle 14 alle 15, perché ci scontano mezz'ora, anche perché dalle 18 alle 20 grande serata, grandi carrambate da Rio. Tu, caro gente, devi capire che sei il Manchester United, io sono il tuo Pogba, ho già accettato, si tratta solo di aspettare per le formalità, ma... Sì, poi arriva Vandanara e le mette a posto, non ti preoccupare. Sì, stai tranquillo. No, senti, invece non si sentirà parlare tutto questo russo a Rio de Janeiro, adesso, senza scomodare Mosca 80 e Los Angeles 84, i due più famosi boicottaggi della storia, qui è un'altra storia diversa e volendo molto più schifosa per certi aspetti. Sì, è una storia molto brutta. Tra l'altro devo dire una roba che a me ha sorpreso nei mesi scorsi, perché Il New York Times pubblicò queste rivelazioni sensazionali sul doping di Stato ai giochi invernali di Sochi del 2014 già alcuni mesi fa. Sì. E la cosa, a parte le reazioni in Nord America, nel resto del mondo passò quasi sotto silenzio. Tu stesso sei testimone, che ce ne sia parola. Ma mi colpì moltissimo perché io lessi quell'inchiesta New York Times, perché i giornali americani, insomma, quando ci si mettono il mestiere lo sanno fare, come te peraltro, ed era veramente documentatissima. E infatti mi sono detto allora, ma questa è una cosa che non può passare, cioè è necessario quantomeno che ci sia un approfondimento. Adesso vedi, siamo in una situazione nella quale da un lato ti dispiace per i singoli atleti, certo, perché sicuramente anche tra i campioni russi dello sport ci sono personaggi al maschile e femminile che senz'altro hanno sempre rispettato le regole, e al tempo stesso non si può nemmeno immaginare però che il CIO di fronte all'evidenza faccia finta di niente, quindi insomma, Ma sai come ha detto Bolt, forse una bastonata che ha un, potrebbe avere un effetto deterrente, no? Potrebbe essere la classica pena draconiana. Io, ripeto, guarda, la cosa brutta è che tu hai veramente la sensazione che una generazione dopo quello che si chiamava il doping di Stato, no? La Germania dell'Est, certo, la caduta del muro, eccetera, eccetera, eccetera, hai la sensazione che siamo di nuovo lì, cioè che non è più solo il doping, no? Gli stregoni individuali, l'atleta che cerca la scorciatoia, eccetera, ma dalle prove che sono state mostrate risulta che sarebbe invece una cosa gestita addirittura ai massimi livelli, in questo caso il Ministero dello Sport russo, certo, i servizi segreti. E questo è molto, molto, beh, molto... Sai, Leo, se non vogliamo chiamarlo doping di Stato, inventiamo pure un'altra parola, però se non è zuppa pan bagnato, come si dice dalle mie parti, quindi la storia è la stessa. In una battuta, perché poi, come sai, abbiamo un appuntamento imperdibile che tu lancerai, quello con il traffico. Certo, perché voglio dire, qui sulla Piero Cormano, Marchionne sta scaricando lattine di Red Bull dalla sua multipla a Metano, che non va più, perché il problema è che la Ferrari non è che dici lotti con la Mercedes, no? Ti ritrovi a duellare per una posizione di rincalzo con i bibitari, con gli orrendi bibitari. Allora, meno male che rimane Raikkonen, l'unico punto fermo, l'unica garanzia assoluta che abbiamo in questa valle di lacrime, il salto bevitore. Prego, scusa, no, volevi chiederti? No, volevo chiederti come vedi tu questa, oggi c'è un altro caso, come vedi tu questo antidoping super postumo, no? Si stanno realizzando i campioni di Pechino 2008, Londra 2012. Sono stati scoperti, annuncia il CIO, altri 45 casi di positività, tra cui 23 medagliati. Non ci sono nomi, non ci sono paesi per il momento, ma queste sono le cose dati. Carlo, io devo dire una cosa, ero a Pechino quando venne annunciata questa cosa. Cioè, non si può dire che non sia stato detto. A Pechino nel 2008 il CIO disse, attenzione, noi adesso custodiremo tutte le provette, eccetera, e per 10 anni continueremo a testare i prelievi di sangue, urina dei campioni. Cioè, venne detto come deterrente, cioè magari oggi non ci sono ancora le tecniche, oggi 2008, no? Certo. Per smascherare chi bara, ma poi ci sono 10 anni di tempo per. E siamo sempre lì. Guarda, io leggevo recentemente un libro bellissimo di Felice Cimonti, che vorrei segnalare, scritto dal nostro collega Maurizio Evangelista, dove lui, parlando di Armstrong, no? Così stiamo sul doping, no? E lui dice, da grande campione del pedale, eccetera, io provo vergogna di fronte a tutto quello che è emerso, come appunto Armstrong, il cowboy, frodava, eccetera, eccetera. Però lui dice, Cimonti, io l'avrei lasciato nell'albo d'oro del tour con accanto un asterisco, perché anni dopo dire non c'è stato nessun vincitore, no? Da un lato fai un torto a chi magari ha corso quel tour pulito, no? E dall'altro ignori un contesto che sicuramente c'era e purtroppo io credo ci sia ancora. Quindi sai, siamo sempre lì, insomma, la lotta al doping non è una cosa che si può risolvere con i casi emblematici. No, certamente. Abbiamo colpito il grande Todd, Ben Johnson dell'88, o Lance Armstrong 20 anni dopo, e tu e abbiamo risolto il problema. Questo, come vediamo dalla storia dei russi, è una faccenda molto più profonda. Non si tratta di abbattere le statue come venne fatto dopo la caduta del muro con quelli, con i simboli dell'impero ex sovietico. Abbiamo il traffico, lo vuoi sentire, Leo? Sì, dai, vai. Tutti insieme. Romano Marchione, fermo. Sì. Sentiamo. Tutti convocati. Tutti convocati. I was tramping up and down, all around from town to town, meeting people of every kind. Some were good and some were bad, some were happy, others sad. Never know who you will find. I never met people like my friends from Wonderland. Such a crazy band like my friends from Wonderland. Leo Turrini, ti ricordi? Mitici anni 80. Quando la ballavamo tutti, No, Sandy Merton era dopato quando fece questa canzone. Assolutamente. Penso che ci siano le prove. Però vorrei sapere a proposito di Ibiza, perché io sono stato agli europei, ero là e leggevo che Belen era fidanzata con Iannone, il pilota della Ducati. Sono tornato e leggo che si è rimessa con Borriello. Sì. Tu che sei molto attento. No, io c'è un signore che conosci bene, perché hai fatto il tifo per lui, che ci può dire tutte queste cose e ci può dire anche se qualcuno ha visto Higuaín. Ti ricordi Luciano Marangone, il tuo terzino sinistro all'Inter? Marco, per campione d'Italia col Verona. Da campione d'Italia col Verona. Ecco, adesso è a Ibiza, gestisce uno dei locali più gettonati da tutti. Chiediamoglielo. Luciano, buongiorno. Buongiorno, io non sono fidanzato con Belè. Smentisci? Questa la smentisci? No, confermo tutte le altre voci, ma quello che... Visto che lei sia come una farfalla, se l'è anche tatuata, salta da un fiore all'altro, sembra. Hai capito, Leo Turrini? Ma Marangoni era un genio come terzino, e devo dire che si conserva tale anche come ricco proprietario immobiliare. Grazie. La farfalla è meravigliosa. Non è male. Senti, Luciano, ma l'hai visto Higuaín? È già passato da te a mangiare o non ancora? No, quest'anno ancora no. Penso che dopo sia rimasto un po' in Argentina, ma comunque arriverà. Se non è arrivato in questi giorni, penso che arriverà prima poi di scendere, non so dove, sia a Torino o a Napoli, perché lui è un abitué di Ibiza. Sì, a casa lì qualcuno dice è già arrivato. L'anno scorso veniva sempre a mangiare in spiaggia da me, poi gira sempre con un gruppo di amici napoletani, quindi un po' di argentini, perché poi qui la comunità argentina in Ibiza è molto folta. Da Belen quindi... in su e in giù. Volevo dire che si arriva in Higuaín, Belen è lì, per Borriello è finita. ormai spara gli ultimi fuochi, credo. Però la fauna qui, devo dire che aumenta, al di là di Belen ce ne sono centinaia più belle, più disponibili di Belen, quindi Ibiza è un po' rinnovata anche per questo, per la musica, per le spiagge, per le belle donne, un po' per tutto, perché si mangia bene, è internazionale, è frequentata un po' da tutto il mondo. Ancora, grazie a Dio, per il momento si sta tranquilli, visto quello che succede un po' in tutto il mondo. Quindi è un'oasi, è ancora una delle poche oasi felici che esistono, soprattutto qui nel Mediterraneo. Infatti ci hai convinto. Sì. Quando Turrini torna da Rio, dalle Olimpiadi, facciamo un salto. Perfetto, e a me danno un paio di giorni di ferie. Ci vi metti aspetto, una buona parola a Turrini. Che vi sistemo io, farfalline comprese. Luciano, senti, niente, quando lo vedo che devo chiedergli. Non lo so, digli che biglietto di aereo prende, perché io non sono così convinto che vada a Napoli. Io credo che a Napoli, giustamente, anche perché il rapporto è stato buono, a parte le sparate del presidente ultime, ma anche l'anno scorso, gli dava di qualche chilo in più, eccetera, eccetera, perché De Laurenti si conosce e ha delle sparate tutte sue, che chiaramente dall'altra parte vengono recepite poi bene o male, però non credo molto bene. Però a parte questo, credo che visto che è una persona corretta, di là del procuratore, qualsiasi sia la sua intenzione, comunque verrà a parlarne e verrà a salutare eventualmente, se deve andare via, i suoi compagni, l'allenatore con cui ha avuto e ha un ottimo rapporto. Senti, quindi non credo assolutamente che il comportamento sia quello di non venire più, assolutamente. Ma secondo, che poi, secondo dopo, te... che poi dopo uno come Higuaín, uno dei più forti attaccanti al mondo ultimamente, sia richiesto da parecchie squadre, penso sia anche normale. È per questo che il Napoli ha messo la clausola dei 94 milioni, certo. Perché sapeva che poteva essere un giocatore molto richiesto, quindi non lo trovo molto strano. Senti, ormai le bandiere, dal mio punto di vista, da diversi anni non esistono più. Servono solo quelle per indicare lo stato del mare. Le uniche bandiere che servono sono quelle. Sono dei professionisti, ormai il mondo del calcio è cambiato, i professionisti, soprattutto i grandi giocatori, vengono richiesti dalle 10, 12 realtà importanti che ci sono qui in Europa. E quindi, e poi adesso è subentrata anche la Cina, come avete visto, certo, che è pronta a spendere tanti soldi per avere giocatori anche mediocri. E quindi immaginate voi. No, infatti stiamo immaginando lo scenario di un mercato che comunque così ricco non è mai stato, e credo che verranno battuti diversi record a proposito di grano che si sposta da una parte e dall'altra. Allora tienici due brandine per me e Turrini, Luciano, ti facciamo sapere. Va bene, ma molto volentieri, molto volentieri. Grazie mille. Anche grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Piacere. Grazie. È stato un piacere risentire Luciano Marangon, terzino del Verona scudettato, dell'Inter, squadra di Leo Turrini. Pronto? Sono qua. Sì, pronto per andare a caccia di farfalle, sì. No, ma adesso sono con mia moglie che vuole spiegazioni su questa proposta di Marangon, che io e te diamo Ibiza e farfalline, ci pensa lui. Allora sono cavoli tuoi, se vuoi... tu fai una cosa, tanto di solito funziona, dai la colpa a me. Io sono il più grande capro espiatorio esistente. Tra l'altro volevo dirti che ho apprezzato molto il tuo understatement, sì, perché nel finale dell'intervento di Marangon c'era un riferimento a Pelé, sì, così laterale, quando ha detto i cinesi buttano oro anche su giocatori il mediocri. Di chi stava mai parlando, è vero. Però il pallone è calciato da Pelé in quella famosa, tragica notte di Bordeaux, non è ancora atterrato. Neanche sulla Piero Cormano. C'è la controaerea dei talebani che sta tenendo d'occhio i cieli sopra Kabul, perché è stato avvistato. Senti, dimmi una battuta invece su... Non è che vai a Budapest, no? Signora non ti lascia, Budapest è una città tentacolare. Non sono ubiquo, hai capito? Poi devo prepararmi per te, per il virus Zika, per questa vettura olimpica, insomma. Però insomma è un momento abbastanza complesso per la Ferrari, tu mi dirai come sempre, sono anni che siamo abituati a trascorrere delle estati bollenti, io credo che scavallati questi due anni consecutivi, Ungheria e Germania, in occasione della pausa d'agosto Marchionne prenderà delle decisioni, come è giusto che sia, perché è il presidente. D'altronde ha sottratto la bicicletta, manco fosse da sotto il sellino a Montezemolo, che era From, e adesso Marchionne deve pedalare. Credo abbia capito che non è così semplice vincere in Formula 1. Di sicuro, insomma, quello che stiamo vedendo in pista per ora non è quello che immaginavamo da ferraristi. Quello che ci avevano detto, quello che ci avevano promesso. Quello che aveva detto lui, per la verità, cioè il presidente. Però io ho l'impressione che Marchionne abbia, come si suol dire, stia imparando il mestiere, ecco, si sia reso conto che fare il presidente della Ferrari del Gran Premio non è un giocattolo. Capito? È un paradosso, perché Fiat Chrysler è un colosso, un gigante dell'industria, la Ferrari. Ma sono altre dinamiche, Leo, che vuol dire? Però ci vuole un qualche cosa di specifico. E imparerà, cosa vuoi che ti dica? Io lo ricordo sempre per deprimere i miei amici ferraristi, no? Montezemolo, che ha battuto tutti i record come vittorie al timone della nave rossa, ci ha messo 8 anni da presidente per vincere il mondiale. E Marchionne, non siamo nemmeno 18 mesi, e quindi allacciamo le cinture e portiamo pazienza. lunghissimo viaggio. Sì. Leo, ci sentiamo presto. E ci sentiamo a lungo e ripetutamente, Leo Turrini. Grazie. Certo, Carlo, un abbraccio. Ciao, ciao. E appunto, ripeto, giusto perché prendiate note, non prendiate impegni, tanto chi va in vacanza? Dal primo di agosto, lunedì, quindi precedendo l'inizio delle Olimpiadi, doppio appuntamento con lo sport, tutti convocati, edizione regolare dalle 14 alle 15. Con uno sconto di mezz'ora, perché dalle 18 alle 20 specialissimo a tutto tondo sulle Olimpiadi, annessi e connessi, non solo sport ma umanità varia. Filippo da Napoli non si muova, stia lì, grazie per aver chiamato. 800 24 00 24, sarà convocato subito dopo la borsa. Welcome to Di Maro. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Si ricomincia! Tutti convocati. Filippo da Napoli, buongiorno, 800 24 00 24, le vostre telefonate, grazie per averci attesi. Dica. Assolutamente un piacere. Tra l'altro Marangon, ricordo che... giocava anche nel Napoli. Esatto. In un'altra epoca, un'epoca anche forse quando i tifosi si creavano, uso questo termine, mi ricordo mio fratello che praticamente diceva, allora, il fratello più grande, no? Diceva, allora questo come si chiama? Ogni volta che sbagliavo un nome prendevo uno schiaffone, infatti sono venuto fuori un tifoso napoletano doc rispetto di tanti miei concittadini che hanno preferito i colori a strisce. Beh, però Filippo, adesso è un po' più difficile, okay. Non solo per certi nomi che sembrano uno scioglilingue, quanto perché molto spesso, ma chi è costui? In rose, non dico come quelle di Guardiola da 40 giocatori, ma in rose che ormai ne hanno stabilmente più di 30, quindi difficile anche con l'album Panini tenere il conto dei giocatori che in squadra. Ogni tanto può capitare di dimenticarsene qualcuno. Marangon, tra l'altro, sottolineo un ascoltatore, ma lo sapevo, è stato anche terzino all'inizio della carriera, era il terzino sinistro non del Real Vicenza, come scrive l'ascoltatore, ma dell'Ane Rossi Vicenza, di Pablito Rossi e di Giussi Farina, che molto in alto arrivò. Dica Filippo, Higuain va o resta? Io pensavo ancora, non sono 44 anni, ma mi manca quel periodo là, forse era un calcio più autentico. No, io proprio perché credo che le cose si fanno in due, e penso che se Gonzalo ha deciso di andarsene, non credo neanche ai discorsi che si è offeso, perché vorrei offendermi con il mio capo che mi paga in quel modo, e alla fine, come dire, come avete sottolineato anche voi, sappiamo bene De Laurentiis, insomma, il carattere particolare che ha, quindi è pretestuoso pensare che se ne va, perché, come dire, si è offeso più di una volta, no. Sono tutte bagianate. No, questione di professionismo, cioè di bieco professionismo, possa piacere oppure no, io continuo a ripetere, come faccio tutti i giorni, che ogni giocatore ha un prezzo, e quando il prezzo è quello giusto, allora è professionalmente giusto, da un lato, per una società monetizzare quei denari che sono tantissimi, e dall'altro per il giocatore andare a guadagnare di più da un'altra parte, perché questo è il professionismo. Poi possiamo fare i romantici, possiamo parlare, come abbiamo fatto ieri, di Masaniello, di un emblema del Napoli, di un capopopolo, tutto questo è stato ed è per il momento Gonzalo Higuain, però qui stiamo parlando di professionismo, e quindi di fronte a certe cifre è quello che succede, come d'altra parte farà la Juventus con Pogba. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. No, chiamavo per la Juventus, sì, a differenza del mio predecessore, nel senso che io ogni volta sento ora parlare nei giornali, alle radio, di una grande campagna acquisti della Juventus che si rafforza ancora più forte. Io vorrei fare una semplice osservazione, cioè noi al momento abbiamo perso Quadrato, Morata, Pogba, perché ormai sicuramente lo perderemo, Caceres e forse Marchisio, i giocatori più forti che abbiamo avuto negli ultimi anni e che ci hanno portato Morata alla finale di Coppa Campioni anche l'anno scorso, Pogba a Marchese per, Marchese per il rientro dall'infortunio, sì, che è, esatto, però è anche 30 anni Marchese, nel senso Quadrato che era il giocatore più ambito da Conte, ma credo da tanti juventini, e ci ha fatto vincere un sacco di partite fondamentali, e alla fine rimpiazziamo con Piaca, Pjanic e Benatia al momento. Cioè, al momento sulla carta siamo molto più deboli dell'anno prima, cioè mi sembra abbastanza evidente. Sì, poi dopo magari però. Sono convinto che poi Marotta e gli altri compreranno dei grandi giocatori, quindi sicuramente si rinforzerà ulteriormente. D'altra parte, Luca, lei ha dato tra i certi partenti Pogba, però tra i, quelli che sono arrivati ha citato soltanto quelli che sono già a Torino da Piazza, che comunque è un signor giocatore, e secondo me non farà molto rimpiangere Quadrado, è anche un giocatore più versatile rispetto a Quadrado, che comunque la Juve sta cercando di riprendere, peraltro, anche se interessa al Milan, interessa ad altre squadre. Pjanic è un eccellente acquisto, sono d'accordo sul fatto che un'altra mossa a centrocampo serve, anche perché Marchisio rientra appunto da un infortunio lungo, che dirà, abbiamo imparato, non offre grandissime garanzie dal punto di vista fisico, perché una volta c'è e quella dopo non lo sai. Però, Luca, se la Juventus dovesse prendere un altro giocatore a centrocampo e Higuain mi consente di dire che cedendo Pogba, beh, insomma, mi sembra che sia più forte dell'anno scorso. Potrebbe essere più forte dell'anno scorso. Non c'è Luca. Vabbè, stavo parlando da solo. Stavo parlando da solo, ma giro la considerazione a un caro amico. Procuratore Andrea D'Amico, buongiorno. Che ho sentito, buongiorno, ciao. Ho detto solo che non c'era Luca e basta. Sì, ripeti. No, ti ripeto rapidamente. Luca da Juventino diceva, ma insomma Marchisio non offre tante garanzie, è andato via Quadrado, è andato via Morata, non mi sembra che la Juventus sia più forte di quella dell'anno scorso. Io penso invece che con l'arrivo di Piazza, di Pjanic, quello probabile di Higuain, anche stante di Benazia naturalmente che è arrivato, di Dani Alves possiamo dire che è arrivato, credo che se si incastrano questi tasselli, se si incastrano questi due anelli, Pogba, Higuain, potremmo avere una Juventus addirittura più forte di quella dell'anno scorso. Ricondivido la tua opinione, perché comunque quello di Piazza è un ottimo acquisto, quello di Higuain sarebbe assolutamente stellare, anche perché io penso che Pipita abbia dei margini di miglioramento importanti, soprattutto dal punto di vista fisico, perché non so se tu hai la stessa opinione, io ogni volta che lo vedo lo vedo veramente un goleador eccezionale, ma lo vedo un po' gordo nel momento stesso in cui secondo me lui si tirasse anche fisicamente sarebbe veramente ancora più forte. Già quest'anno è stato un po' meno gordo, si è parlato di dieta, di frutti di mare eccetera, però in effetti si è asciugato un po' Higuain ed è un giocatore di una potenza clamorosa. Io insomma solo all'idea di vederlo in coppia con Dybala, schifo non fa. Certamente sarebbe una coppia stellare, ma io riguardo dell'alimentazione, guarda, ho visto i frutti che ha prodotto su un giocatore che già era molto attento come Borriello. Lui dai tempi del fine gennaio, dai tempi del Carpi, arriva all'Atalanta, ha adottato un regime alimentare basato proprio sul controllo ormonale e tutto, ha perso 7 kg di massa grassa in un mese e mezzo. Devo dire che è tanta cosa per uno che deve fare il cacciatore professionista senza perdere resistenza, senza perdere potenza, quindi a mio avviso questi grandi campioni sono come dei motori della Formula 1, vanno messi a punto proprio in maniera certosina. Senti Andrea, ti uso come insider da Di Maro, perché so che sei stato là nei giorni scorsi a trattare un tuo assistito che è Giulio Donati, esterno del Mainz, che interessa molto al Napoli. Non so come sia la situazione attuale, se vuoi me lo dici, ma io voglio chiederti anche come hai trovato l'ambiente napoletano, perché insomma lì ha parlato molto De Laurentiis, ma gli altri non aprono bocca, Sarri compreso. Oggi c'era una apparizione pubblica di Sarri e due giocatori, è stata cancellata, quindi c'è un clima molto strano. Ma guarda, ti dico, intanto per Giulio Donati non ci sono grandi novità, perché comunque per il Mainz è un giocatore molto importante, l'allenatore è uno dei giocatori più importanti. È un po' strano, perché comunque l'anno scorso l'abbiamo offerto a tantissime squadre quando lui era al Bayern Leverkusen, e poi dopo sai, comunque quest'anno ha fatto molto bene andando al Mainz, andando in Europa, la situazione è un po' cambiata, però ci lavoreremo sopra. Per quanto riguarda l'ambiente del Napoli, effettivamente c'è un po' di stress, vogliamo dire stress, un po' di nervosismo, un po' di attesa, un po' di, sono quei momenti un po' particolari. È comunque un ambiente molto, come posso dire, accentrato, nel senso che la luce di questo Napoli è comunque Aurelio De Laurentiis, e quindi è chiaro che per le altre figure si abbeverano, per così dire, a quello che è la fonte primaria, la luce primaria. Mi sembra, ti dico, ho trovato un po' strane queste parole del presidente, che dice se Higuaín volesse tradire, perché comunque nel momento stesso in cui tu a livello negoziale fissi un prezzo di uscita di un calciatore, poi dopo accetti l'evenienza che qualcuno possa pagare questa clausola. Sembra quasi, cioè non le ho capite, non le ho trovate molto fair. Sai, forse erano parole più che altro rivolte al pueblo, che certamente felice non è, no? Ha cercato magari di spostare in maniera ingiustificata, perché tu hai ragione, qui è nero su bianco, cioè se uno porta quei soldi si prende il giocatore. Però ho l'impressione che quei soldi devono arrivare entro un determinato periodo, entro una determinata data, altrimenti poi dopo la clausola non vale più, e a quel punto si riapre le trattative partendo praticamente così, libera negoziazione. Libera negoziazione, sì. Però insomma le ho trovate un po' così folcloristiche. Un po' folcloristiche mi sembra il termine corretto, caro Andrea. Senti, invece, ritieni plausibile che possa essere Icardi il sostituto di Higuaín al Napoli? Continua a pensare che Icardi non abbia avuto una grande idea per quanto riguarda il procuratore, ma queste sono mie opinioni, mie riflessioni, ecco. Ma ritieni possibile che si muova da Milano e che vada a Napoli? Ma sono due livelli completamente diversi, insomma. Higuaín è comunque un campione, Icardi è un buon giocatore che è ancora campione, non è, insomma. Higuaín ha dimostrato comunque di sapersi caricare Napoli sulle spalle e ottenere comunque il massimo da questa squadra. I paragoni sono sempre fuorvianti nel calcio, anche perché quando li fai corri il rischio perlomeno di essere smentito dopo un po'. Però mi sembra che lo standing sia assolutamente diverso per ora. Non lo so, io ricordo quello che ha fatto Cavani a Napoli insieme a Lavezzi, ed era stato veramente qualcosa di incredibile, sembrava irripetibile. Poi è arrivato naturalmente un prodotto di alta fascia come Higuaín, che comunque sembrava quasi uno scarto del Real, e ha fatto vedere quello che... Devo dire che io stesso l'ho rivalutato, perché mi ricordo le parole di Ancelotti, che mi diceva sempre che era un grandissimo giocatore. Non escluderei neanche delle sortite internazionali. Poi ti dica una cosa, secondo me il Real Madrid ci proverà fino in fondo con Lewandowski. Dici? Ma Ancelotti ha detto Lewandowski non si muove di qui, è più forte centrale del mondo. A volte se sono delle dichiarazioni che sono così propedeutiche a determinate situazioni future, e quindi anticipano magari o cercano di alzare il prezzo. Ma io non ho detto che il Bayern lo voglia vendere, ma sicuramente il Real ci proverà. A quel punto lì il Bayern non può rimanere senza un grande centravanti, quindi non escludo scenari futuri, anche perché è un po' come il domino: quando tu muovi un grande centravanti, di conseguenza poi si muovono gli altri. No, ma poi come ho detto, quest'anno con la maggior parte dei grandi club europei che hanno cambiato allenatore era destinato ad essere un mercato di tanti quattrini e di spostamenti importanti. Andrea, posso chiederti un attimo di pazienza? Poi avrei un'altra curiosità da chiederti, sempre sul fronte internazionale, perché era successa una cosa abbastanza strana tra Torino, Barcellona e Andre Gomez. Tutti convocati. We'll be right back. convocati. Allora, ad Andrea D'Amico, uno dei principi del foro dei procuratori, volevo chiedere di questa storia. Ieri sera si è diffusa la notizia di una Juventus molto vicina ad Andre Gomez, comunque una Juventus che aveva parlato con Jorge Mendes, suo potentissimo procuratore, e si stava trattando. Poi, 10 minuti dopo, sito ufficiale del Barcellona, Andre Gomez è nostro, 35 milioni più 20 di bonus. Dove sta l'errore? Ma l'errore non c'è, che comunque ogni agente tratta contemporaneamente su più tavoli, e quindi nel momento stesso in cui hai l'offerta che ti sembra migliore la chiudi. Di conseguenza anche le società che stavano trattando il giocatore poi dopo si trovano in qualche modo spiazzate, ma è successo probabilmente la stessa cosa anche con Piazza tra Milan e Juve, insomma. Sì. Cagliani ci ha provato, poi alla fine il giocatore sceglie e vede qual è la situazione più conveniente, e di conseguenza tu puoi averci provato fino a un secondo prima, ma se poi dopo la scelta ricade su un'altra concorrente, tu non rimani con le mosche, ma certo, rimani con un palmo di naso. E per chiudere, Andrea, cosa vuol dire quando un agente come quello di Rakitic, sempre su questa vicenda, dopo l'arrivo di Andre Gomez, dice o tweet, non, insomma, dichiara con qualche mezzo, è ora di partire. Rakitic è un super giocatore, uno dei migliori del centrocampo. Sì, blaugrana. È un, può voler dire due cose: o che batti casa, perché comunque avendo paura poi di essere oscurato per quanto riguarda le prestazioni, il numero di prestazioni da parte di un nuovo arrivo, che normalmente nel calcio vale sempre il vecchio adagio che più costi più vale, no? Sì. E quindi nel momento stesso in cui arriva un new entry hai paura magari di non giocare più, già magari aspettavi di vedere ritoccato il tuo contratto dopo comunque una stagione importante che ha portato comunque il Barcellona l'anno scorso a vincere la Champions, quest'anno comunque hanno ottenuto dei successi interni, e di conseguenza magari può voler dire quello, o magari può voler dire che vedendosi chiuso a livello tecnico il nuovo arrivo e avendo magari in cassetta altri stimatori con squadre importanti, dice ok, allora voglio andare via. Non vuoi scendere da un treno che conta. Andrea, grazie. Una buona giornata a tutti voi. Un abbraccione. Ciao. Un abbraccione ad Andrea D'Amico. Torno a parlare con i miei amici convocati. 800 24 00 24, numero verde. Renato intanto scrive, c'è anche il popolo di quelli che scrivono, 349 238 6666, numero che vale per messaggi SMS e WhatsApp. Cosa ne pensi di Osvaldo al Pescara? Può essere un crack o sarebbe meglio Simone Junior? Mirko da Parigi mi scrive. Mirko vuole sapere cosa ne penso di Osvaldo al Pescara. Non ho alcun pensiero particolare nei confronti di un giocatore che ha cambiato più magliette che farfalle. La mettiamo così? Va bene, dai. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo proprio scagliarmi contro... Scagliarsi. Scagli pure. Questo proibizionismo del doping, che è una cosa assurda. Se lo guardiamo con occhi lucidi, è una cosa da pazzi, cioè un grande fratello che entra nelle stanze, nei cessi dei ciclisti, degli atleti e tutto, per andare a vedere chi, non chi è il più scorretto, ma chi è il più sfortunato, che è rimasto vittima del controllo in quel momento, che ha preso un farmaco e 3 mesi dopo è diventato illecito, è tutto folle. Doping, essere libero, sono persone adulte, responsabili, prendano quello che vogliono, rischino quello che vogliono, perché poi vince sempre quello che ha il talento più grande. Si dopano tutti e poi vince il migliore, questa è la verità. Sì, questa è una posizione estrema che non è assolutamente peregrina, Alessandro, è una delle possibilità. Questo però con una precisazione. È lì, Alessandro? Sì, certo. Allora, possiamo fare questo discorso estremo che ovviamente farà accaponare la pelle alla stragrande maggioranza, però ha un senso farlo, secondo me, ed è capitato anche a me di farlo. Si dice liberalizziamo il doping, però la condizione deve essere: si fa per i professionisti e soltanto per i professionisti, monitorati 365 giorni l'anno a garanzia e a tutela della loro salute, dichiarando le sostanze che vengono prese, eccetera, eccetera, eccetera. perché non invece dire chiunque può far uso di qualunque veleno, allora questo non mi va, perché a quel punto le risorse dell'antidoping le destiniamo in toto a scovare chi fa usare quelle robe ai ragazzini, agli amatori che ogni tanto insomma ci lasciano la pelle per strada per misteriosi motivi. Su questo siamo d'accordo, no? Certo, solo maggiorenni responsabili, perché no, poi professionismo dilettante. Secondo me vale un principio di libertà individuale, quindi vale il maggiorenne, poi faccia quello che vuole. Il minorenne, siccome è in mano ad altri, allenatori, eccetera, eccetera, e non può, almeno la legge considera che non siano completamente senzienti, ecco, allora in quel caso lì si pune, è un po' come la prostituzione. Sì, sì. Si punisce lo sfruttatore. Sì, sì, anche dal punto di vista morale, anche dal punto di... anzi, forse qualcosa di peggio. Forse il mestiere più antico del mondo è addirittura più rispettabile che si fa in età, ma non voglio fare della demagogia. Però io la seguo fino ai professionisti. Oltre i professionisti non vado, per quanto riguarda la liberalizzazione, per quanto riguarda il concetto ognuno faccia quello che vuole, perché a quel punto si entra in un, secondo me, in un ambito di enorme rischio che sappiamo esiste, è inutile che ci chiudiamo gli occhi, però non possiamo tollerare, insomma. Grazie Alessandro, grazie dell'intervento, che è stato interessante. 800 24 00 24, il numero verde, estremo, sono d'accordo, però è inutile far finta che queste posizioni o che queste valutazioni non esistano. Non vale la pena infilare la testa sotto la sabbia. Gustavo, buongiorno. Buongiorno. Senta, io mi permetto di fare un appunto di questo genere. Cioè, ho sentito lo juventino tifoso che ha chiamato dicendo che si sono indeboliti, no? Rispetto agli acquisti che hanno fatto rispetto alle vendite. Però trovo anche una cosa giusta a suo favore, che quando lei ha detto di Piazza o Piazza, adesso come Piazza. Si chiami, ecco, Piazza, che lei ha definito è un buon giocatore, un gran calciatore, quindi è un buon acquisto. Io dico che è molto giovane, lo volevano tutti, è stata una delle stelline dell'Europeo per quel che può valere, ma comunque è un giocatore che anche prima dell'Europeo veniva seguito da grandi club, è uno che ha grande talento fisico e personalità. Ecco, io perché quel poco che ho visto alla televisione, perché altro non sono riuscito a reperire su questo calciatore, sì, probabilmente come dice lei sarà una persona che potrà esplodere prossimamente, però anche lo juventino di prima non ha fatto un'osservazione sbagliata, perché sembra, ma sulla carta forse si sono indeboliti, e non le dico io di che colore sono, perché lei mi dovrebbe dirmi di che colore è? Sono interista, ma guardi che avevo già capito, l'avevo già, insomma, un po' di qualche filo bianco nella barba ce l'ho, l'avevo già capito questo, mio caro Gustavo. Non ci faccia troppo conto sul fatto che si siano indeboliti, non sono così d'accordo. Aspettiamo di vedere come va a finire il mercato, posto che il mercato vada a finire come tutti ci immaginiamo, e posto che Higuain potrebbe non essere, caso di partenza di Pogba, l'unico giocatore che arriva alla Juventus. Allora, state con noi dopo il GR, altri grandi ospiti, soprattutto uno, e che sta dall'altra parte del Po torinese. E ascoltatori, 800 24 00 24, andremo anche al tour. Solo chiacchiere, solo mare di ciacole, chiamiamole ciacole per essere educati. Tutti convocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati, ovviamente Leopoldo, Michele, Marco e tutti quelli che vorranno chiamare l'800 24 00 24, tanto siamo qui per tutta l'estate, e anzi, ripeto, in occasione delle Olimpiadi, il doppio appuntamento tutti convocati più programma serale dalle 18 alle 20 per parlare di Olimpiadi, ma di tutto quello che volete essenzialmente, secondo questo schema immutabile. Leopoldo, buongiorno, grazie dell'attesa. Buongiorno a lei. Senta, io sono un tifoso del Napoli, anche se non ho l'accento napoletano. Noi viviamo questa dimensione fuori dai confini partenopei. Beh certo, non serve avere l'accento per difendere una squadra. No, vabbè, diciamo che il tifoso del Napoli ha una caratteristica particolare, si caratterizza anche per queste cose. Comunque, al di là di questo, diciamo, De Laurentiis ultimamente parla di chiacchiere, mari di ciacole, ma noi diciamo tifosi del Napoli un po' datati, io ho 51 anni, quindi seguo il Napoli da quando ne avevo 5 probabilmente, che abbiamo ancora qualche barlume di razio statistico, abbiamo imparato a conoscerlo, no? Cioè, sappiamo chi è De Laurentiis, quindi voglio dire, a lui dobbiamo certamente una dimensione di questa società nell'Olimpo del calcio italiano, ma ora basta, cioè questo è un teatrino visto e rivisto, l'abbiamo vissuto con Cavani, l'abbiamo vissuto con Lavezzi, insomma è la solita manfrina, ecco, quindi diciamo evitiamo di farci prendere in giro per l'ennesima volta, insomma. Onestamente lei mi dica, al di là del tifo, io credo che sia più la volontà del Napoli di De Laurentiis di vendere e di monetizzare Higuain che il contrario, che poi ci sia anche da che parte il contrario di Higuain, in che senso? Che Higuain voglia andare via, che Higuain voglia andare via, cioè voglio dire che lui poi abbia anche questo sentimento di voler entrare probabilmente in una società di altissimo livello, questo credo che sia legittimo e sacrosanto, ma che Napoli non abbia nessuna intenzione di vendere Higuain lo trovo veramente assurdo, insomma secondo me c'è una grande, grande volontà di voler monetizzare, di incassare questi 94. Beh, allora Leopoldo, due considerazioni, la prima è che è stato l'entourage di Higuain, suo fratello, a dire tempo fa che comunque Higuain non aveva intenzione di rinegoziare il prolungamento del contratto, ancora 2 anni di contratto, non intende estenderlo, e quindi io credo che anche dal punto di vista così delle dinamiche del calciomercato sia questo il momento cruciale per prendere una decisione. La seconda, come sottolineava prima Andrea D'Amico, faceva notare che comunque esiste una clausola rescissoria, e quindi se volontà o non volontà di vendere o di non vendere qualcuno si presenta con quei 94 e rotti milioni, il giocatore parte, perché ci ha attaccato il cartellino del prezzo, perché il prezzo l'ha fissato De Laurentiis e ritiene, credo, sia un prezzo equo e giusto. Ha detto che non accetta altro se non contante, e io credo che così sarà. Non mi pare molto un teatrino, al di là delle dichiarazioni di Laurentiis, però vai a esultare sotto la curva, vai a cantare e poi ti lasci corrompere dai nemici giurati. Oh, saluto e ringrazio il presidente del Torino Urbano Cairo. Buongiorno presidente, che piacere. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno, senta, tantissimo entusiasmo, forse lei è presidente da qualche annetto, ne aveva visto così tanto intorno a delle altre edizioni del Toro, o questa tutta fantasia e gioventù di Ilyaic e Iago Falche accende di più la fantasia granata? Beh, sicuramente l'entusiasmo è tanto perché diciamo che abbiamo una squadra che ha delle buonissime basi. Qui abbiamo aggiunto Ljajić, Iago Falque, il nostro grande mister Sinisa, che piace molto. È già amore, presidente, è già amore per Sinisa? Ma io lo stimo molto, mi piace molto, mi piace molto la sua schiettezza, il suo modo di essere molto diretto, di non fare troppi giri di parole, di andare diretto al punto, è uno molto ti dice le cose come le pensa, ti dice subito la verità che lui ha in mente, e quindi è una buona cosa, credo che sia importante avere persone diciamo di questo genere, oltre poi alle sue qualità, perché poi lui è un uomo, è un allenatore insomma l'abbiamo detto quanto bravo è, quindi però adesso io non voglio esagerare, perché adesso qui l'importante è il campo, come sempre quello che dice, però le premesse sono molto molto buone. A me, quindi dicevo che insomma le premesse sono molto molto buone, ci sono delle buonissime premesse, per cui bene, sono contento. Chiaramente lui, l'entusiasmo intorno al Toro è un entusiasmo notevole, ce ne fu altrettanto diciamo quando io presi il Torino, quell'anno lì fu una cosa addirittura straordinaria, però era un anno particolare, era fallito, quindi insomma c'erano dei motivi per cui per cui l'entusiasmo lì era chiaro, chiaro. Era l'anno della resurrezione, insomma, l'anno in cui è stato rivitalizzato. Poi, ma a me Mihajlovic sembra, al di là delle capacità individuali, del carisma eccetera, mi sembra l'allenatore giusto al posto giusto, considerata l'età dei giocatori, l'età, la composizione della rosa, il talento che ha a disposizione e i giocatori che ha a disposizione. Mi sembra l'uomo giusto al posto giusto. Questa... ma sicuramente sono contento della scelta e appunto facciamo di tutto per supportarlo, per completare la squadra in ciò che manca. L'abbiamo fatto dandogli quei due tasselli importanti, e cioè di Aice e Iago Falque. C'è qualcosa ancora da fare a centrocampo, il metodista, e poi vediamo un po' come vanno i giocatori che abbiamo e vediamo se fare qualche altro intervento oppure no. Però certamente direi che le cose procedono bene. Presidente, mi faccio giocare al calciomercato. Io le faccio tre nomi, lei mi dice come va a finire questa storia. Il primo è Bruno Perez. Ma dunque, Bruno Perez è il nostro giocatore a cui siamo molto, molto legati, che ha fatto benissimo con noi e ha delle qualità notevoli. È oggetto di interesse di molte squadre, però io diciamo che da una parte voglio capire lui quanto voglia di rimanere al Toro oppure no. E poi dall'altra, evidentemente, qualora lui volesse fare esperienze diverse, ci può stare, a quel punto lì vedere esattamente le offerte che ci fanno, perché è comunque un giocatore molto molto importante che io non voglio certamente cedere per valori non adeguati, diciamo, al valore. Certo. Secondo nome, Valdifiori. Ecco, qui io non parlo di giocatori di altre squadre, l'ho detto già, ho visto che anche Mourinho dice così, per cui insomma ha detto sono così, in buona compagnia. Intanto Pogba sta arrivando. Terzo nome che le faccio, Maximovic, che invece è della sua squadra. Maximovic deve rimanere con noi, perché lo scorso anno l'ho tenuto in quanto non avrei certamente venduto Maximovic nell'ultima settimana quando ce lo chiese il Napoli, non era possibile farlo, e poi purtroppo ho avuto un'annata diciamo costellata cominciata con quell'infortunio che l'ha tenuto bloccato per 4 mesi abbondanti, poi è rientrato, ma come sempre dopo grandi infortuni diventa difficile, poi trova la squadra anche in un momento particolare, quindi insomma diciamo che lo scorso anno è passato un po' così. Oggi invece io ci tengo molto che lui, che per di più giochiamo a 4, come lui ha sempre gradito moltissimo, rimanga con noi e faccia un'annata splendida, tanto con il suo mentore, perché diciamo chi ha lanciato Maximovic in nazionale è proprio Mihajlovic, che tra i due c'è un rapporto splendido, quindi deve rimanere con noi e poi insomma fare una grande stagione, perché quello che io volevo che lui facesse lo scorso anno avrebbe voluto anche lui, ma non l'ha fatto perché purtroppo non è stato possibile causa infortuni. Senta, invece che effetto le fa vedere i movimenti che si stanno facendo milionari dall'altra parte del Po? Io continuo a pensare che ogni giocatore abbia un valore e un prezzo, qui si parla di quote stellari di denaro. Che effetto le fa vedere cosa sta succedendo alla Juventus? Beh, sai, come sempre, secondo me la cosa che conta è la legge della domanda e dell'offerta. Se c'è qualcuno che è disponibile a pagare delle cifre molto importanti per Pogba, evidentemente vuol dire che il giocatore vale quelle cifre, così come se qualcuno vuole pagare la clausola per Higuain, vuol dire che vale quelle cifre. Io sono molto per il mercato sovrano. Il mercato è quello che comanda, tra virgolette, perché è una legge di domanda e offerta. Quando la domanda c'è, allora a quel punto lì il prezzo sale. Assolutamente. Ma sfondo una porta aperta con me. Io non mi scandalizzo e mi guardo bene dal fare della demagogia sui prezzi e sugli stipendi dei giocatori. È questione appunto di domanda e offerta per lavoratori infungibili. Quindi queste sono le leggi, anche se vogliamo, dello show business. Invece, in questo momento è così. Invece vedere il suo allenatore con la maglia della nazionale, che in quel caso è camicia blu notte e giacca tono su tono, che effetto le ha fatto? Beh, guardi, un effetto splendido, l'ho trovato un filo ingrassato. Anzi, sì, sarà il matrimonio. Il matrimonio lo ha fatto un filo ingrassare, però devo dire, a parte gli scherzi, benissimo, sono felicissimo, l'ho trovato molto ben insediato, molto molto grintoso, determinato, voglioso di far bene, quindi ho visto un Ventura, diciamo il miglior Ventura, quindi benissimo. Lui mi ha chiamato tra l'altro immediatamente il giorno dopo, perché mi ha detto devo venire a trovare, perché dobbiamo andare nel nostro posto in cui abbiamo fatto i nostri contratti, perché insomma deve portare fortuna a me che vado in nazionale e chiaramente a lei che comincia la stagione. Quindi lo aspetto a breve per andare a trovare, per andare a prendere un caffè nel nostro baretto speciale in cui facciamo il primo accordo. Vuole la benedizione, vuole la benedizione presidenziale. Sì. No, direi siamo rimasti molto legati, che grande stima, sono sicuro che farà bene. Poi voglio capire cosa vuol dire, cos'è quell'aggettivo eccitante che ha appiccicato la sua nazionale futura. Adesso ha cambiato, forse la parola libidine non si attagliava ad una nazionale, allora adesso è eccitante, ma ce la mette sempre una parola che ha a che fare con l'argomento. Verissimo. Presidente, un'ultima cosa, gli AIS non è stato l'affare più importante della sua estate, sa a cosa mi riferisco? Ah beh, certo, beh, sicuramente. Lì abbiamo fatto questa nostra OPS, poi diventata OPAS, quindi l'offerta pubblica di scambio e di acquisto di azioni della RCS, che ci ha molto molto impegnato, mi ha molto impegnato a partire da marzo, sono 4 mesi abbondanti, una cosa veramente molto impegnativa, sono molto contento che sia andata così, anche qui vede il mercato ha prevalso, perché ci ha creduto nel nostro progetto, ci ha dato addirittura quasi il 50% delle azioni, rispetto agli altri che hanno preso soltanto il 37,7%, ma partivano dal più del doppio di noi, quindi veramente devo dire bellissimo. E adesso però quello che conta, la battaglia più importante è risanare l'azienda, valorizzarla bene, perché c'è tantissimo da fare e io ci credo molto, quindi è stata una cosa, questa sì, molto eccitante e devo dire che insomma molto bene, sono molto contento e non vedo l'ora di cominciare. Se la conosco come la conosco è carico come una sveglia. Se la conosco come, sì. Un pochino come la conosco. Poi il derby con la Fiorentina diventerà un derby, ma pazienza, No, vabbè, ma no, ma lì siamo gemellati. No, il calcio è gemellato. Presidente, io la ringrazio molto. Grazie. Grazie a voi. Grazie, Omaro Carro, presidente del Torino. Grazie davvero. Allora, Michele e Marco hanno seguito insieme a me questa, sono due convocati che hanno seguito insieme a me questa chiacchierata col presidente del Torino e non solo, Urbano Cairo. Buongiorno Michele. Buongiorno. E da juventino sono contento però che Torino stia in questi anni facendo dei passi importanti anche a livello societario, che poi è la cosa che conta di fatto, come si vede le altre società che ci sono ancora in Serie A, insomma. Dove c'è serietà si vede che Michele, ma dove si lavora bene? È chiaro che insomma vale il solito discorso. Certe volte ti trovi ad andare a fare la battaglia con i carri armati, con il fucile caricato a turaccioli, però se hai fantasia, se hai capacità di lavorare, ma non vale solo per il Torino, vale per fortuna diversi grandi club italiani, se hai competenza, se hai una società ben strutturata. Basta guardare il Torino, il Sassuolo, insomma abbiamo diversi esempi virtuosi nel nostro calcio, anche se spesso siamo abituati a deprimerci, quindi condivido quanto ha detto. Però juventino, sì, juventino, e quindi però comunque dico, se siamo arrivati a questo punto anche passando da quello che era Calciopoli, anche perché quelli di Calciopoli avevano previsto 15 anni prima che lo stadio diventava un punto cardine per poter andare in Europa a testa alta, e quindi bisogna dare atto anche a questo, insomma, quello di sicuro. E volevo solo dire una cosa veloce sul discorso di Higuaín, che secondo me è stata una cosa molto chiara da parte di Marotta e Paratici, che sono notoriamente, diciamo, allergici ai media, nel senso gli piace fare lavorare in periodi di sottobosco, no? Contro un De Laurentiis invece che dei media fa la sua forza, no? Secondo me è andata molto semplice, loro gli hanno ribadito che con Higuaín erano già d'accordo, cioè Higuaín, secondo, se c'è la possibilità viene alla Juve, e loro gli hanno detto allora o ci sediamo e trattiamo, oppure quando decidiamo noi, perché sappiamo quali sono i tempi, vediamo se vogliamo pagare la clausola o no. Questo vuol dire che comunque il tempo poi per il Napoli per comprare un giocatore medio forte, perché comunque in giro sul mercato non ce n'è. Quello è il problema. E metto le spalle al muro, e tant'è vero che De Laurentiis ha fatto 3 giorni in cui ne ha sparate a 1000 a tutti, perché si è trovato secondo me, spiazzato e ha voluto fare la voce grossa quando sapeva che questo vale, ma Michele, questo vale per il discorso Higuain, ma vale a monte anche per il discorso Pogba, cioè non sono affari che si chiudono negli ultimi 10 minuti di mercato, sono uno spostamento di praticamente il passaggio di proprietà di un'azienda o quasi l'equivalente, e dunque è normale che il fattore tempo sia determinante. La verità sta nel fatto che De Laurentiis potrebbe trovarsi con le tasche piene di soldi e con eventuali interlocutori che sanno perfettamente della sopravvenuta ulteriore ricchezza del Napoli, però appunto non vedo giocatori top in grado di cambiare il destino del Napoli come poteva fare Higuain, quindi è proprio dal punto di vista delle entrate che Napoli potrebbe trovarsi, cioè dei giocatori in entrata che Napoli potrebbe trovarsi in difficoltà, perché è chiaro che non puoi dire faccio la corsa su Lewandowski perché è improponibile. Tra l'altro abbiamo sentito prima D'Amico dire che secondo lui, nonostante le dichiarazioni di intenti, questo filo che tiene legato Lewandowski, il Bayern Monaco e il Real Madrid potrebbe essere percorso. A quel punto chissà che si liberi Benzema, un super giocatore, dovesse arrivare al... però stiamo parlando di total fantamercato, stiamo parlando di total fantamercato, quindi lì si vedrà. Non vedo in giro nomi che possono rimpiazzare Higuain nemmeno in parte. Ci vorrà grande competenza e fantasia, come dicevamo prima. Marco, buongiorno da Bologna. Marco non mi sente. Marco da Bologna, ci proviamo dopo. Intanto facciamo un salto al Tour de France. Piero Augusto Stagio invece mi sente come? Sì, ti sento. Ciao caro, buon pomeriggio a tutti. Senti, ieri grande cronoscalata. Vabbè, che From sia imbattibile in questo tour l'abbiamo capito. L'avevamo capito ormai da un po', però sì, un buon colpo di pedale, una buona condizione a livello psicologico, mi sembra in salute. Sì, discretamente, il ragazzo male non sta. Sì, si diverte, si sta divertendo. Noi un po' meno, però lui si sta divertendo parecchio. Se noi un po' meno, figurati gli avversari che vengono bastonati regolarmente. Ieri sera, dopo la cronoscalata, ha fatto una bella conferenza stampa in sala stampa, proprio a côté del traguardo di Invecerra. E poi è stato 35 minuti cronometrati a firmare autografi con assoluta disponibilità con tutti i bambini e gli appassionati che lo aspettavano fuori. È stato uno spettacolo. Grande. E parlava con grande serenità le sue tre lingue, francese, inglese e tantissimo italiano. Questo è bello, comunque bello, è una persona molto semplice, nonostante sia di ormai di grandezza immensa, è restato comunque un ragazzo molto molto semplice, molto disponibile. Ma si vede, bisogna dirlo e riconoscerlo, oltre ad essere un grande corridore, è un bravissimo ragazzo. Ma si vede guardandolo negli occhi che è uno fatto così. Poi magari scopriremo sì, un giorno un killer, mille. Ecco, in bicicletta è un killer, nel senso che non regala nulla, l'abbiamo visto. Lui ce l'ha fatto capire dalle prime tappe, perché andava a rubare secondi a destra manca, scattando anche in discesa. Ricordiamoci che lungo la discesa del Périssourd ha lasciato con la borraccia in bocca il buon Nairo Quintana, che lì avrebbe dovuto capire tante cose. Invece tra chi lo vedeva anche in difficoltà, dice Frum si sta muovendo in maniera un po' nervosa, e questa sua apprensione è indice di insicurezza. Mi è sembrata di vederne in questo corridore si avvia a vincere. Il nuovo tour. Il collega l'ha scritto e l'ha. Vabbè, comunque qualcuno l'avrà anche vista. Io invece ieri ho visto un grande Fabio Aru terzo a 33 secondi dal Marziano. E tutto sommato, leggo la classifica, è vero che Aru è settimo a 6.08 da From, dal vincitore. Oggi c'è un altro tappone di grandi montagne. Però Quintana quarto a 4.37, vado su Yates terzo a 4.16. Vabbè, proviamo a sognare il podio? Il podio è lì, a meno di 2 minuti. Non sarà facile, ma non è impossibile. È fondamentale la giornata di oggi, perché oggi è veramente una tappa molto dura, più dura di quella di domani, anche se comunque domani con ogni probabilità si giocherà il tutto per tutto, ma secondo me c'è meno terreno. La tappa di oggi invece può far davvero male. Bisogna sperare che oltre a vedere una bella prestazione da parte di Fabio ci sia anche di contro una prestazione almeno negativa di corridori tipo Bardet, Romain Bardet, tipo Adam Yates, tipo Quintana, cioè devono scivolare indietro, perché se anche loro poi in realtà si difendono, si staccano ma non perdono tantissimo, allora a quel punto è durissimo. Però io credo che il quinto o il podio, cioè un terzo posto, possa essere assolutamente la portata di Fabio, che ha la leggerezza del neofita che sente attorno a sé grande entusiasmo. Certo. Lui è già, lui sta già vincendo il suo tour, perché ricordiamoci, forse è vero che ha vinto una Vuelta, è vero che lui ha già ottenuto 2 podi al Giro d'Italia, un terzo e un secondo, però è all'esordio al Tour de France. Sì. È come dire un ragazzo che per la prima volta gioca la finale di Champions League. Certo, chiaro, chiaro, no? chiaro. Lui sta facendo una finale di Champions League ogni giorno da 20 giorni ormai. Però ormai ha capito come si fa e si sta trovando a proprio agio e si sente pronto per la grande sfida. Sì, non, beh, sai, si trova nelle condizioni di chi da perdere, di chi da perdere ha davvero pochino, di chi comunque sta pedalando bene, si vede che sta bene, si vede che ha energie e potrebbe essere davvero un cliente difficile per chi ha ambizione di podio. In questo momento ci sono Mollema e Yates che non sono però lontanissimi. Grazie Pier, grazie Pier Augusto. Grazie a te Carlo, buon pomeriggio. Ci sentiamo certamente domenica quando torneremo su questi schermi dalle 17 alle 19 come sempre. Leonardo Bologna, quanto abbiamo? Un minuto e mezzo, dica. Salve Genta. Salve. La volevo dire questo, prima ricollegandomi al discorso dei progetti, alle qualità dei progetti, che se le aziende sono strutturate bene fanno delle buone cose nonostante tutto. A Bologna ne diamo prova, nel senso che abbiamo una società che si sta organizzando benino, assolutamente piano, sì, assolutamente sì, passo dopo passo. Però allo stesso tempo volevo ricordare alla Juventus, cioè ai tifosi della Juventus, che se hanno lo stadio, che se hanno questa grande società che lavora indubbiamente benissimo, lo devono anche al fatto che prendono tanti di quei soldi che non lo sa neanche il signore, cioè prendono 10 volte i soldi di tutte le altre società. Lo quindi so, quando sento che scherzano ironicamente, che dicono ma la forbice... che erano lungimiranti, hanno fatto lo stadio. No, mio caro, ma la forbice è questa, ma la forbice è questa in tutti i paesi, in tutti i grandi paesi europei, la forbice è questa in Spagna, la forbice è questa in Germania, la forbice è questa in Francia. I ricchi sono sempre più ricchi e gli altri inseguono e devono sognare il modello Atletico Madrid. Molto banalmente il parallelo che mi sento di fare è questo, è un discorso che abbiamo fatto molte volte. I top club europei, vuoi per la potenza degli investitori, dei proprietari di per sé, vuoi per il fatto che incassano montagne di soldi come la Juventus per le partecipazioni e l'avanzamento in Champions League, i ricchi diventano sempre più ricchi, quindi fantasia al potere, signori. Ne riparliamo domenica per l'appunto, tutti convocati weekend, vi aspetto qui dalle 17 alle 19 perché quest'estate non vi facciamo mancare proprio niente. Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia e ci sentiamo domenica, ciao, grazie. Oggi mi ha fornito, ma che da fare questi Pokémon, dai, un bacio a tutti quanti, non cercate troppi Pokémon che fanno male.